potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna. Sai, stavo pensando a una cosa. Pensiamo a quando guardiamo un film d'azione o magari un documentario molto intenso. Certo. E a un certo punto c'è un taglio di montaggio improvviso, magari un po' brusco. E senza un motivo logico preciso, proviamo un vago fastidio, no? Una leggerissima nausea o magari una contrazione muscolare. Succede spessissimo, sì. Esatto, e di solito diamo la colpa a un banale errore tecnico del regista. Diciamo, ah, che brutto stacco, ma in realtà sta succedendo qualcosa di molto più profondo. Non è il nostro senso estetico a essersi offeso, è letteralmente il nostro sistema nervoso, il nostro intestino, cioè che ha appena rigettato fisicamente la grammatica di quell'immagine. Guarda, è un punto di partenza perfetto, perché diciamo che smaschera subito una delle illusioni più radicate della nostra cultura. Fin dai tempi di Cartesio ci hanno addestrati a pensare a noi stessi come a dei cervelli in una vasca. Il famoso penso dunque sono. Esatto. Crediamo che la nostra mente sia una specie di sovrano assoluto, è isolato, intoccabile. Chiuso nel castello del cranio, che osserva il mondo da una finestra e, insomma, si limita a impartire ordini meccanici a un corpo che consideriamo poco più che un veicolo. Un taxi, per la mente, ecco. E l'esplorazione di oggi serve esattamente a smantellare questo finto sovrano. Vogliamo capire come la coscienza, le nostre intuizioni e perfino l'etica e la creatività nascano in modo assolutamente letterale fuori dal cranio. Nel resto del corpo. Un cambio di prospettiva enorme. Enorme. E per farlo abbiamo sotto mano un materiale incredibile, un saggio intitolato Il corpo che sa. Dall'affordance alla coscienza, la rivoluzione del sentire. Scritto dal ricercatore Michele Amico. E guarda, voglio subito citare la copertina di questo documento, perché è magnetica. Bellissima, vero? Sì. Mostra una mano umana che si avvicina alla zampa di un cane. Ma la particolarità è che i loro sistemi nervosi e tutta la rete viscerale, lo stomaco, l'intestino, sono illuminati, come se fossero circuiti elettrici attivi, circondati da icone digitali ed emotive. Cioè, è una sintesi visiva potentissima. Mette subito in evidenza una connessione pura, carnale e neurologica tra due specie diverse. Azzera del tutto l'idea che la coscienza sia un monologo interno. Ci fa vedere che l'intelligenza è in realtà un dialogo continuo e fisico con l'ambiente circostante. Per chi ci sta seguendo, il traguardo di questa nostra immersione è ambizioso. Vogliamo arrivare alla fine avendo completamente ridefinito quella sensazione che tutti chiamiamo sesto senso. Che non è magia, non è una metafora New Age astratta. È pura, cruda e rapidissima biologia. Assolutamente. Ma per capire come funziona, dobbiamo prima fare un passo indietro. Dobbiamo analizzare in che modo il nostro organismo dialoga con la realtà. L'autore divide questo dialogo in due flussi principali, che vanno in direzioni opposte. Il flusso top-down e il flusso bottom-up. Partiamo dal top-down, dall'alto verso il basso, che poi è quello che usiamo quasi sempre in modo cosciente. Giusto? Giusto. Il flusso top-down è, diciamo, il regno della ricerca logica, dello sforzo cognitivo e dei filtri mentali. È quando noi cerchiamo di imporre la nostra intenzione sul mondo. Il saggio usa un esempio molto pratico, davvero efficace. Quale? Immagina di cercare un martello in un garage disordinatissimo, pieno di scatole, attrezzi, cianfrusaglie di ogni tipo. In quel momento, la nostra mente non sta assorbendo oggettivamente la realtà. Sta proiettando un filtro. Praticamente stiamo ignorando quasi tutto. Esatto. Scansioniamo l'ambiente, ignorando il 90% degli oggetti, cercando unicamente forme, pesi e magari materiali che corrispondano all'idea astratta di martello che abbiamo preimpostato nel cervello. Quindi stiamo piegando la realtà al nostro scopo. Ma poi c'è il flusso opposto, il bottom up. Dal basso verso l'alto. E qui le cose ci sfuggono completamente di mano, no? Qui entra in gioco l'imprevisto. Riprendendo l'esempio del garage, stai scansionando lo spazio con il tuo filtro mentale attivato. La concentrazione è massima. Ma all'improvviso inciampi su un secchio di metallo nascosto. Ai! C'è un rumore assordante, una fitta di dolore al piede, il corpo che si sbilancia in avanti per non cadere. Ecco, in quel millesimo di secondo non c'è nessuna pianificazione. Il mondo ci ha letteralmente aggrediti, forzando il nostro sistema nervoso a reagire in modo istantaneo. Sai, mentre leggevo questa parte, cercavo di visualizzare il meccanismo in un modo un po' diverso, perché di solito pensiamo alle distrazioni come a, non so, un'interferenza radio. In che senso? Tipo, sto cercando di sintonizzarmi su una frequenza per sentire una canzone, ma c'è un temporale e il segnale gracchia. Ma secondo me, guardando a questa biologia, è qualcosa di molto più fisico. È come se noi fossimo un diapason. Ah, interessante. Con la nostra volontà, il top-down, decidiamo di vibrare a una certa frequenza per cercare il nostro famoso martello. Ma inciampare nel secchio è come se qualcuno colpisse una gigantesca campana di bronzo proprio di fianco a noi. Rende benissimo l'idea. Il nostro diapason non può semplicemente ignorare quel rumore. L'onda d'urto della campana altera letteralmente e fisicamente la nostra vibrazione. E questo mi porta a un dubbio. Dimmi. La nostra società tende a glorificare il top-down. La razionalità, la pianificazione aziendale, l'autocontrollo. Lo consideriamo superiore. Ma se il mondo esterno ha il potere di sovrascrivere fisicamente la nostra attenzione, tutta questa ossessione per il controllo razionale non è un'enorme illusione? La cosa affascinante in tutto questo è che sì, è la più grande illusione che ci portiamo dietro dal paradigma cartesiano. E il saggio introduce un concetto brillante per spiegare come il mondo esterno riesca a sovrascrivere la nostra vibrazione. È la teoria dell'affordance, dello psicologo James Gibson. Affordance. Una parola chiave di oggi. Esatto. In termini semplici, l'affordance è l'offerta dell'ambiente, ciò che l'ambiente ci mette a disposizione. Ma la vera rivoluzione sta nel dividerla in due categorie ben distinte. Le possibilità d'azione e gli inviti all'azione. Precisamente. La possibilità d'azione appartiene al mondo del top-down, del nostro bisogno. Immaginiamo di essere esausti dopo una lunga corsa. Guardiamo un muretto e non vediamo un bel reperto architettonico. Vediamo solo qualcosa su cui sedersi. Certo, una visione utilitaristica. L'oggetto serve a placare una mia necessità. Ma la seconda categoria ribalta tutto. L'invito all'azione, che è puro bottom-up. C'è un esempio nel saggio che rende tutto chiarissimo. Un grosso pomello dorato e lucido, montato proprio al centro di una porta bianca e liscia. Noi magari non abbiamo nessuna intenzione di aprire quella porta. Non ci serve affatto. Ma quel pomello ha un peso visivo, una rotondità che attira in modo magnetico la mano. È l'ambiente che ci seduce, che ci invita ad agire prima ancora che la mente prenda una decisione cosciente. Ok, analizziamo bene questo punto, perché questo ridefinisce completamente la creatività. Non è la classica lampadina che si accende nella testa. È l'istante in cui la nostra ricerca ostinata, il top-down, viene sequestrata da un invito inaspettato, il bottom-up. È esattamente il famoso click creativo. Cioè, non è un'idea che cade dal cielo. È un pezzo di puzzle fisico che si incastra. È la mano che, magari, mentre cerca un materiale ruvido al buio, sfiora inavvertitamente un tessuto di seta. E il corpo capisce all'improvviso che era quella la risposta giusta. È una sensazione di risonanza. Esatto, è il corpo che riconosce la soluzione. Però freda un attimo, fino a qui è una teoria sulla percezione bellissima. Ma fisicamente, come avviene questo incastro? Se la creatività è fisica, dove avviene esattamente nel corpo? Come fa il corpo a capire un pomello prima della mente? Avviene attraverso reti neurali incredibilmente rapide e purtroppo spesso ignorate. Partiamo dai neuroni specchio e dal sistema somatico. Quando vediamo quel martello o quel pomello dorato invitante, non stiamo solo registrando freddi dati visivi. I nostri neuroni motori si attivano in automatico, come se la nostra mano stesse già afferrando l'oggetto. Aspetta, vuoi dirmi che la mia mano ha dei microspasmi? Cioè, si contrae fisicamente solo guardando uno strumento ergonomico ben fatto. Non è un'esagerazione. È la base della cognizione incarnata. Il nostro sistema nervoso simula costantemente le interazioni. Un'opera d'arte, per esempio, provoca tensione muscolare perché il tuo corpo sta già abitando quell'invito visivo. Ma c'è di più. A governare l'accettazione o il rifiuto di questi inviti c'è un intero ecosistema che oggi la scienza definisce secondo cervello. Ah, il sistema nervoso enterico, quei milioni di neuroni sparsi nella pancia, nell'apparato digerente, che comunicano col cranio tramite questa immensa autostrada che è il nervo vago. Proprio quello. E il nervo vago non trasmette vaghe sensazioni, trasmette veri pacchetti di dati. Qui il saggio cita il neuroscienziato Antonio Damasio e la scoperta del marcatore somatico. Immagina che la tua mente debba prendere una decisione importante e abbia davanti mille opzioni. Se dovesse analizzarle tutte lucidamente, calcolando i pro e i contro di ogni singolo scenario, finirebbe in paralisi. Non decideremmo mai nulla, saremmo bloccati. E invece interviene l'intestino. Processa i dati ambientali a una velocità spaventosa e manda dei segnali di allarme o di piacere, supera il nervo vago. Il marcatore somatico dice: questa strada scotta, oppure questa opzione mi rilassa. E così restringe il campo logico. È qui che le cose si fanno davvero interessanti. Perché significa che quelle frasi fatte tipo «me lo sentivo in pancia» non sono solo modi di dire, sono referti neurologici letterali. L'intuizione vincente, il click, è in realtà un rilascio di tensione motoria. Esatto, il corpo rilascia la contrazione. La tensione della ricerca incontra l'invito, c'è coerenza e i muscoli si rilassano. Ma allora ti chiedo, questo significa che chi ignora il proprio corpo, considerandolo solo una distrazione, perde letteralmente metà della sua propria intelligenza cognitiva? Sta navigando al buio. La ricerca logica, senza il marcatore somatico che ti dice qui c'è pericolo, sarebbe un calcolo freddo e infinito. Saremmo macchine bloccate. Pazzesco! Finora abbiamo parlato di oggetti, martelli, pomelli, video. Ma qual è l'affordance più potente in assoluto nell'ambiente? Gli altri esseri viventi, senza dubbio. E infatti il saggio fa un salto bellissimo sull'empatia. Sì, perché il volto di un amico triste non è un'informazione visiva da analizzare. Non è un testo, è un invito magnetico. I neuroni specchio di cui parlavamo ci costringono alla simulazione interna. Cioè il nostro viso si incupisce per risonanza motoria, non perché decidiamo di essere tristi per lui, ma in automatico. Esattamente. In quel momento la distinzione tra io e l'altro svanisce. La coscienza diventa uno spazio comune. E questo solleva una questione importante su come concepiamo le relazioni umane. E anche animali. Infatti l'immagine di copertina, la mano e la zampa. La cinofilia è un esempio chiave nel libro. Il dialogo con il cane è perfetto perché togli di mezzo le parole. Non sono scambi intellettuali, ma vere e proprie danze del sistema nervoso. Le orecchie abbassate o lo spostamento di peso del cane sono inviti all'azione. E il corpo dell'umano cambia postura prima di analizzare logicamente la situazione. È pura risonanza. E il libro usa anche un altro esempio stranissimo, ma che calza a pennello, il montaggio video emozionale. Ah sì, verissimo. Chi monta un video non esegue freddi compiti logici. Se stai montando una clip di un cane che corre, non decidi a tavolino quando tagliare. È la luce sul pelo o il ritmo del suo respiro a dettare il ritmo del taglio al tuo corpo. È il sistema motorio di chi monta essere sedotto. Si risuona con l'immagine. Ma se il nostro corpo è così programmato per risuonare e dire sì agli inviti, cosa succede quando qualcosa è sbagliato? Da dove nasce il senso di errore, quella nausea di cui parlavamo all'inizio della puntata? Nasce dall'affordance negativa. Quando l'ambiente, invece di un invito, crea una barriera. Pensa a un frame video che tecnicamente è corretto, ma che ti provoca quel fastidio allo stomaco. Ho la tensione nell'aria prima che un cane reagisca male, quel millesimo di secondo in cui ti si gela il sangue. Esatto. L'intuizione creativa cerca l'attrito zero. Quando c'è attrito, il corpo protesta. E questo ci porta alla scoperta più forte, la bussola etica. L'etica nasce dai neuroni specchio. C'è? Vedere un'ingiustizia ti costringe a simulare il colpo subito dall'altra persona. Se il sistema enterico, la pancia, risponde con la nausea, lì nasce la coscienza etica. Il corpo si rifiuta di risuonare con un atto distruttivo. Quindi, cosa significa tutto questo? Voglio fare la parte della scettica per un attimo. Vai. Se la morale non è un ragionamento astratto studiato sui libri di filosofia, ma una nausea fisica, significa che senza la capacità fisica di provare questo attrito, la nostra coscienza etica sarebbe cieca. La moralità è davvero solo un riflesso digestivo. Detto così suona brutale, ma sì. Senza la nausea, la morale sarebbe solo una serie di regolette di calcolo. Un calcolo freddo. Chi non ha questa risonanza, come nei casi clinici di mancanza di empatia, può calcolare perfettamente le conseguenze legali di un'azione, ma non sente che è sbagliata. La bussola è nel corpo. Questo cambia davvero tutte le carte in tavola. E avendo appreso di essere queste macchine biologiche così ricettive, il passo finale del saggio inverte la lente. Ci fa rendere conto che noi stessi siamo l'ambiente. Noi siamo gli inviti per gli altri. Non riceviamo solo affordance, le creiamo. Se colleghiamo questo al quadro generale, emerge una responsabilità enorme. L'autore lo chiama l'atto di cura. Un montaggio video inutilmente frenetico, con audio stridente, colpisce il sistema nervoso dello spettatore e crea ansia. Non è solo brutto, è fisicamente aggressivo. Come una postura rigida di fronte a un cane, è un invito all'attenzione, con cui l'animale risuonerà inevitabilmente. E grandi comunicatori fanno il contrario, creano la sincronia indotta. Generano affordance così potenti da agganciare il bottom up del pubblico. Una frase detta col tono giusto, un'immagine equilibrata, dettano letteralmente il battito cardiaco di chi ascolta. L'etica della risonanza. Sapendo questo, abbiamo il dovere morale di emettere inviti che portino armonia e non conflitto. La coscienza si espande dal nostro io all'impatto che abbiamo su tutta l'orchestra che ci circonda. Non stiamo parlando alla testa delle persone, stiamo parlando ai loro neuroni specchio. E credo che questa sia la sintesi perfetta del messaggio del saggio. Bisogna smettere di cercare la coscienza solo dentro la testa o nei ragionamenti astratti. Si trova nel modo in cui la mano cerca la tazza di caffè, nel viso che si incupisce per empatia, nella risonanza fisica. Tutto, inevitabilmente, passa per il corpo. Tutto. E prima di chiudere questa immersione, voglio lasciare a chi ci ascolta un grande interrogativo, un po' provocatorio. Sentiamo. Se la nostra coscienza, la nostra creatività e la nostra bussola etica dipendono così profondamente da questo scontro fisico e tangibile di inviti e reazioni corporee, cosa succederà alla nostra specie man mano che ci immergiamo in mondi di realtà virtuale o in ambienti governati dall'intelligenza artificiale, dove l'ambiente fisico scompare e le affordance sono solo simulazioni fluide, prive di vero attrito biologico? Rischiamo forse di perdere la nostra nausea etica e il nostro sesto senso? È una domanda che fa venire i brividi, ma è fondamentale porsela oggi. Assolutamente. E con questo pensiero noi vi salutiamo. Ringraziamo chi ha partecipato all'ascolto di questo viaggio affascinante. Il nostro suggerimento per la giornata di oggi è di fare attenzione a quei piccoli, misteriosi inviti che il mondo lancia continuamente ai nostri corpi. Ascoltate la vostra pancia. Alla prossima. Potatv.it. Oltre lo specchio, dentro la mente. Scienza, affordance e vita quotidiana con il tuo cane. Benvenuti in una nuova prospettiva della cinofilia moderna.